Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Ci sono delle date che rimangono scolpite nella storia della tua vita. Momenti che vengono usati come richiamo soporifero per accompagnarti al sonno, la sera, a letto, quando sei solo e cerchi di aggrapparti a un evento felice che ti traghetti verso una soffice tranquillità. Sono Maurizio Governa, ho 56 anni e vivo da sempre a Milano. Mi occupo di abbigliamento sportivo con una specializzazione negli sport atipici, quali snowboard, surf, kite, wakeboard, inline. Dovrei seguire il consiglio di Maurizio, perché ogni tanto quando vi chiedo di continuare a mandare storie, di continuare a raccontarle, in realtà, degli episodi della vostra vita, in un'unica pagina e di mandarceli qui, a voi siete qui, @radio24.it, vi dicevo, quando vi chiedo di mandarli provo a dire prendetevi mezz'ora di tempo, oppure avete il fine settimana libero, mettetevi lì un paio d'ore e cercate un pezzo della vostra vita che racconti qualcosa di voi. Invece il consiglio di Maurizio, che non è nemmeno un consiglio, la sua è proprio una presa di coscienza di quello che succede nella sua mente un attimo prima di addormentarsi. Dice, la sera a letto, quando sei solo e cerchi di aggrapparti a un evento felice che ti traghetti verso una soffice tranquillità. Ecco, quel momento lì, che alcuni chiamano in un altro modo, alcuni chiamano l'immagine bella con cui addormentarsi, forse è il momento migliore per cercare di capire qual è la storia che in qualche modo vi racconta. Se è un'ossessione magari e vi tormenta e vi viene in mente anche se non ci avete pensato, se invece proprio vi mettete di proposito, appoggiate la testa al cuscino, spegnete la luce e dite dai che voglio addormentarmi con una bella roba in testa, con una bella immagine, con un bel ricordo. Ecco, fate una cosa, pensateci, fermatela, poi alzatevi, accendete la luce, aprite il computer, voi siete qui, @radio24.it. Quella è la storia che in qualche modo racconta di voi. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, questa è Radio 24, siamo in diretta da Milano, è il 23 di settembre 2013, è l'ultima settimana di settembre, con le affermazioni ho finito, direi, nel senso che ho detto l'ora, quanto manca alla fine del mese, ho detto il nome, e poi però da lì ricomincia, perché ufficialmente poi il palinsesto riparte il 1° ottobre, giusto? Cioè il nuovo palinsesto parte 1° ottobre, quindi siamo un po' in anticipo di fatto sul nuovo palinsesto, però chiudiamo settembre e poi ripartiamo col palinsesto bello fresco di Radio 24 che riparte appunto ai 1° ottobre, che prevede alcuni cambiamenti, alcuni assestamenti, alcuni modificamenti. Era tutti in enti. Margherita. 349-238-6666. Oggi raccontiamo una storia bella precisa, la storia di Maurizio, che racconta, come avete sentito, una data importantissima nella sua vita, che può sembrare frivola, in realtà non lo è, perché è il pensiero felice che lo accompagna a letto, perché è la storia a cui lui pensa quando ha voglia di traghettare, come dice lui, verso una soffice tranquillità. Ed è quel giorno in cui in un'unica volta vinse due volte, cioè vinse due partite a tennis via una l'altra. Non vi racconto di più, altrimenti poi la storia finisce qui. 349-238-6666. Se vi è mai capitato di vincere due volte, per due volte intendiamo due volte nello stesso arco di tempo, due volte con la stessa persona, due volte nella stessa disciplina, due volte nello stesso luogo. Però la parola chiave è due volte, evidentemente, ed è l'hashtag della giornata anche sul profilo Twitter. Mi piacerebbe lanciarlo così a cavolo, Margherita, scrivi un hashtag due volte. Così chi ha Twitter segue, se lo va a vedere. Voi siete qui a R24, il profilo del programma. Vi dicevo, se avete vinto due volte, con chi, con cosa, dove, oggi è la puntata per voi. 349-238-6666. Parliamo di tennis nella storia di Maurizio, quindi è un po' per appassionati del tennis, ma anche no, è un po' per gli appassionati di quelli che vogliono sentire una bella storia con cui traghettare verso il sonno. Enea ed io eravamo grandi amici ventenni, ma soprattutto condividevamo una grande passione per il tennis. Enea era molto più bravo di me e io avevo una profonda ammirazione per il suo gioco tecnico e preciso. A quel classico torneo di Ferragosto eravamo arrivati in finale del singolare, ma la particolarità è che eravamo coppia anche nel finale di doppio. Il torneo si svolgeva in un piccolo circolo di tennis sul lago di Endine. Chiamarlo circolo è già un esaltativo, considerando che aveva solo un campo da tennis. Noi eravamo a casa di Enea, lì i suoi zii avevano una grande villa con piscina ed erano molto conosciuti. Pertanto, alla doppia finale del nipote, non potevano non mancare. Ma l'amicizia con Enea, con il ragazzo appunto di questo racconto, era del periodo della nostra adolescenza, quindi intorno ai 20 anni, e nasce dal fatto che entrambi eravamo appassionati di tennis e giocavamo nello stesso circolo a Milano, il Junior Tennis Club, e casualmente poi d'estate andavamo in vacanza insieme in posti abbastanza vicini nella provincia di Bergamo, in due valli vicine, e partecipavamo nel corso dell'estate a questi tornei zonali, diciamo, che ce n'erano parecchi in quel periodo negli anni 70, e quindi spesso giocavamo in doppio e vincevamo. Quando c'erano i tornei di singolo invece vinceva sempre lui. Entrammo in campo alle ore 14. Quel giorno il sole era un enorme pallone che trasudava a calore verso quel piccolo campo di terra rossa. Gli addetti lo avevano appena bagnato per renderlo meno polveroso, ma nonostante tutto la terra sembrava evaporare e al primo passo le nostre bianche divise erano già arrossate. Iniziamo la partita della finale del singolare e il primo set seguì il corso della normalità di ciò che doveva essere. Un bel 6-2 violento e sicuro per Enea. Tutto ciò inorgogliva e faceva lievitare gli zii, seduti in prima fila insieme ad altre 20 persone, riunite a bordo campo, locali sostenitori dell'idolo di casa. Iniziamo il secondo set, e dopo i primi games ancora dominati da Enea, tentai una sofferta rimonta, incredulo sulla possibilità di portarmi a casa almeno un set, e invece lo feci. Vinsi 6-4. Eravamo al set conclusivo e mi ero reso conto che forse quel 15 agosto poteva essere per me una data importante. Giocai con tutte le forze che mi rimanevano, ma l'avversario era davvero forte e ogni palla era per me una sofferenza fisica e mentale. Lottammo per oltre un'ora su quel set conclusivo. Il caldo ferragostano delle 4 del pomeriggio era impressionante. Sembrava, per chi ci guardava, che fossimo usciti entrambi da una sauna, grondante di sudore, con le magliette ormai rosse appiccicate al corpo. Avevo capito che le mie condizioni fisiche potevano fare la differenza e cercai di farlo correre il più possibile. Fu la tattica vincente. Vinsi 7-5. Lo sparuto pubblico applaudì a lungo e anche gli zii, sebbene delusi, parteciparono sportivamente al plauso, mentre io entravo nella storia. Non poteva però concludersi così quella giornata. Infatti, dopo pochi minuti di riposo, dovemmo rientrare in campo per la finale del doppio. Il sole non appagato aveva pensato bene di non concedere nemmeno una tregua, anzi. Aveva concentrato ancora di più le sue attenzioni su quel piccolo campo da tennis sul lago. Forse si stava divertendo anche lui. I nostri avversari erano due anziani quarantenni, poco dotati ma molto esperti. Noi eravamo due giovani ventenni distrutti da 3 ore di gioco. Sembrava tutto segnato. Infatti il primo set scivolò via in un comodo e veloce 6-1 per la coppia degli anziani. Nel secondo set però iniziai a recuperare le forze bevendo litri di acqua. Non esistevano allora bevande energetiche e tentammo un'impossibile rimonta. Con intelligenza e miglior tecnica portammo a casa il secondo set. Cominciammo così a giocare il terzo set e a fianco a me il mio eroe si era ormai trasformato in un Muppet. Rosso come un'arancia di Sicilia, bagnato come un pulcino appena nato, con i suoi grandi occhiali totalmente appannati, mi guardava chiedendo di ritirarsi. Io gli imposi di resistere. Ormai ero io il padrone del campo e gli ordinai di lasciarmi fare. Lo misi a rete e gli chiesi di intervenire solo quando riteneva di riuscirci. La sensazione che ha avuto è stata di una certa soddisfazione e rivalsa di tutto quanto avevo subito nel corso degli anni in cui avevo partecipato a tornei dove vinceva sempre lui, quindi in quel momento mi sentivo io il dominatore della giornata, e il fatto di vederlo così dimesso, più in umiltà rispetto alla solita sua forma, mi dava estremamente soddisfazione. Avevo recuperato una vivacità inattesa, forse la vittoria del singolare ormai in tasca, o forse lo sguardo di Claudia. la mia bella fidanzata diciottenne, che anche lei, esausta da un pomeriggio di tennis, mi guardava da bordo campo seduta su una scomoda sedia di plastica e mi fecero da propellente per lanciarmi verso un'impresa epocale. Macinai chilometri ormai da solo e alla fine vincemmo con un altro 7-5 al terzo set, abbattendo la coppia di anziani. Alle ore 19:15 era finita. Ero stato in campo oltre 5 ore, ma ero io il campione della giornata. Il sole ormai si stava ritirando, appagato da quanto aveva visto quel 15 agosto 1977. Al sordo rumore delle palline si era sostituito il tranquillo cinguettare degli uccelli che annunciavano la sera, il profumo dei pini, il bianco lago increspato di fine pomeriggio, i complimenti che ricevevo alzando la coppa verso il cielo azzurro e il brindisi con vino fresco bianco mi appagarono dello sforzo che avevo fatto. Ma soprattutto a ripagarmi era stato il bacio di Claudia, che sarebbe diventata mia compagna di vita per oltre 35 anni. Quando ci si corica la sera, dopo una giornata intensa e piena di problemi, si cercano quegli angoli della memoria che ti facciano addormentare in una delicata e soffice altalena di bei momenti della tua vita passata, sicuri che nessuno potrà mai portarteli via. Rafa Nadal, quando invecchierà, si ricorderà di quel 6 luglio 2008, quando vinse Wimbledon contro Roger Federer, ma... Ma quel 16 agosto del 77, quella vittoria sul lago, era e resterà sempre la mia Wimbledon per il resto di tutta la mia vita. Going down a dirty inner city side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up past the sky, began to cry, she shot it. C'è sempre una epica biografica autobiografica incredibile quando ognuno di noi racconta, soprattutto i maschi, mi suggeriva Tiziano, e ha ragione, soprattutto quando i maschi raccontano di una loro vittoria che possibilmente affonda le radici negli anni ormai passati, nella giovinezza, in anni che ormai sono lontani e per la quale uno ti può dire: ma scusami, ma se pesi 150 kg come fai ad aver vinto quella maratona? Ma è... Ero un'altra persona all'epoca. E la storia di Maurizio un po' è così. Non credo pesi 150 kg, ma non è questo il problema. È che comunque quel 16 agosto del 77 rimane nella sua storia come un momento che probabilmente la vittoria di Mohamed Ali a Kinshasa è poca roba. Probabilmente i telegiornali sportivi ne parlano di più della vittoria a... Andine, mi correggono, non Endine. Adesso chiederemo direttamente a Maurizio. Pronto, Maurizio? Sì, buon pomeriggio Andrea. Matteo, sono Matteo io. Io dico Andrea Matteo, chiedo scusa subito di partenza, sono partito male, bene. La rifacciamo Maurizio, stai lì. La rifacciamo, 1, 2, 3, ripartiamo. Okay. Pronto buon Maurizio? Matteo. Buon pomeriggio, come stai? Molto bene, grazie. Endine. La città si chiama Endine. Ah, allora probabilmente qualcuno mi ha scritto la correzione con l'accento. È il lago di Endine, è molto vicino al lago di Iseo. Però è molto più piccolo. Immagino. È molto più piccolo, estremamente piccolo, è un laghetto proprio minuscolo vicino al lago molto più grande. E lì, diciamo, sovrasta tutto il lago la villa degli zii del nostro amico. Sì. Me la immagino così, questa villa con la piscina, è un po' tutti che vanno lì un po' alla questua quasi. La immagini molto bene, infatti era una villa stupenda con una piscina che dava sul lago. Ed era un po' la casa di residenza estiva di Enea, certo. Nel periodo principalmente in agosto, quando andavamo a fare vacanza in Sta. Io ero in una valle vicino, in Val Seriana. E lo raggiungevi da quelle parti? Lo raggiungevo spesso e capitava negli anni 70, poi c'era questa popolarità estrema del tennis, quindi c'erano tantissimi tornei. Ma perché 77 era l'epoca, forse vincevamo la Coppa Davis, erano gli anni, nel non 76, ricordo più io. Nel 76 vincemmo Coppa Davis e addirittura Panatta vinse, se ricordi, Parigi e Roma. Ah certo, era proprio gli anni di Panatta. Nel 76. Ok, quindi era proprio il boom del tennis. Il boom del tennis, era estremamente popolare. Ma Maurizio, però parliamo un attimo di Enea, perché c'è comunque un rapporto di amore e odio con questo Enea, nel senso che è un amico carissimo, però quando lo vedi paonazzo in faccia durante il doppio pochettino, non è che ti dispiace. Di soddisfazione c'era. Sì, in realtà è così, nel senso che con Enea avevamo un'amicizia profonda, anche perché ci frequentavamo anche a Milano e giocavamo nello stesso circolo. Lui era estremamente più forte di me, quindi veramente molto bravo. Capitava veramente rarissimamente che potessi tentare di avvicinarmi per poterlo battere, quindi quella è stata un'occasione unica, irripetibile, non si è più ripetuta. Al punto che diciamo che tu ci ha mandato la storia di quella partita e Enea non ci ha mandato le storie delle altre vittorie, no? Giusto per dirne qualcuna. Maurizio, tu però hai continuato con lo sport più o meno, giusto? Dunque, io ho continuato con lo sport in maniera agonistica su un'altra disciplina che è stata lo snowboard, e questa passione si è poi trasformata anche in interesse di lavoro e attualmente mi occupo di distribuire dei marchi nel settore dell'abbigliamento sportivo, dell'attrezzatura sportiva, che contemplano anche il mondo dello snowboard. Ma vai ancora in snowboard? Ci vado in maniera molto più tranquilla, facendo più free ride, per cui... Ma perché prima cosa facevi invece? Proprio gare? Prima c'erano proprio gare, sì, sostanzialmente negli anni 80, 90... All'inizio proprio dello snowboard. All'inizio proprio del mondo dello snowboard, 90 soprattutto, diciamo le gare classiche del mondo dello sci, quindi i classici giganti piuttosto che super G, venivano poi fatti anche con le tavole da snowboard. Ma quindi abbiamo vinto qualcosa, Maurizio? Ma noi a livello di risultati agonistici nella disciplina cosiddetta hard, quindi con le tavole rigide, siamo estremamente forti tuttora. No, ma io parlavo di noi inteso come te, Maurizio. Cioè, noi come noi, diciamo, qualche risultato buono l'ho avuto e diciamo nell'ambito dei primi 10 in Italia sono riuscito ad arrivare. Beh, allora insomma, però... Lo sport non era così. Era pionieristico, lo immagino. Era pionieristico, Maurizio, prima di salutarti, però la domanda è d'obbligo: è Enea che fine ha fatto? Ma guarda, Enea in realtà sono non forse 30 anni esiste. Che non lo sento più. Non lo so. E quindi mi farebbe estremamente piacere poi poterlo ricontattare. Beh, diciamo che allora immagino non ci siano tantissime persone che gravitano intorno al lago di Endine e che si chiamano Enea. Quindi se c'è qualcuno che dovesse avere un collegamento può scrivere a voi siete qui @radio24.it e come è già successo magari troviamo il modo per farvi incontrare. Maurizio, grazie ancora per la storia e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto. Grazie Matteo. Buona giornata. Grazie, ciao, grazie. Ciao. Speravo mi salutasse con un ciao Andrea. Voi siete qui. Buon pomeriggio Andrea. È un bellissimo uomo, Maurizio. È veramente un bellissimo uomo, scusami. Sono partito male. Nella foto che ci ha mandato Maurizio, che ci ha mandato Maurizio e che trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, voi siete qui. È un bell'uomo con i capelli brizzolati, è a metà strada tra Superman, come si chiama il personaggio di Superman quando ha gli occhiali? Personaggio di Superman, Clark Kent. È a metà strada tra Clark Kent e Julian Assange. Enea ed io eravamo grandi amici ventenni, ma soprattutto condividevamo una grande passione per il tennis. Enea era molto più bravo di me ed io avevo una profonda ammirazione per il suo gioco tecnico e preciso. A quel classico torneo di Ferragosto eravamo arrivati in finale del singolare, ma la particolarità era che eravamo coppia anche in finale di doppio. Buon pomeriggio Andrea. Farei leggere anche la rubrica del telefono ad Alessandra De Luca, così, solo per un puro sollazzo dell'udito. 349-238-6666. 2 anni fa ho vinto Coppa e Campionato nella stagione di Fantacalcio Lega 77 con i miei amici. Sono stato il primo a farlo. Nessuno potrà mai portarmi via quel record. E poi, nell'81 mia moglie dà alla luce 2 gemelli. Non lo sapevamo. Quindi è una forma di doppia vittoria. E poi ancora, qualcuno cita Benjamin, prima di dormire penso sempre a lei in un prato di cotone con i petali di rosa rossa. Questo però è riguardo al pensiero bello prima di andare a dormire, alla storia che vi viene in mente prima di addormentarvi. E poi qualcuno mi scrive: ho toccato 2 volte il mio idolo Wes Peden. Wes Peden, non, ovviamente nessuno di noi sapeva chi fosse, però ho fatto una ricerca preventivamente per non farmi trovare come al solito come un imbecille qualunque che non sa nulla. Wes Peden è un juggler, è un giocoliere, è un giovanissimo giocoliere americano che pare essere il miglior, è del 90, quindi è a 23 anni e pare essere un fenomeno assoluto nella giocoleria. Se andate su YouTube ci mettete, scrivete Wes Peden con la W, Wes Peden, credo Wes perché è americano, fa dei numeri incredibili, quindi evidentemente la persona che ci ha scritto ha a che fare con la giocoleria, immagino. Raccontaci di più, se è un tuo idolo, il senso di tutto ciò. 349-238-6666, si parla di doppie vittorie, visto che parlavamo di tennis, ne avevamo due possibilità oggi: parlare o di Rafa Nadal o di Roger Federer, per un semplice motivo, perché Djokovic adesso è un po' fuori categoria, insomma, è il numero uno. Poi Djokovic è molto simpatico, è molto forte, è sempre all'attacco, è un po' meno interessante di sicuramente di, anche di Rafa Nadal, ma sicuramente meno interessante di Roger Federer, ed è comunque meno interessante per il semplice fatto che nessuno ha scritto di lui come qualcuno ha scritto di Roger Federer. C'è un libricino, ve l'ho già citato una volta, ma lo farò fino alla fine del mio tempo in onda. C'è un libricino che si intitola Roger Federer come esperienza religiosa, e altro non è che la pubblicazione di un articolo molto lungo che David Foster Wallace scrive per il New York Times nel 2006. Nel 2006 il New York Times piglia David Foster Wallace e gli dice: vai a Wimbledon a vederti Wimbledon e scrivici qualcosa sul torneo. Lui ne sa a pacchi di tennis perché è stato un tennista giovane, anche molto forte nei primi anni della sua gioventù, e quindi è uno che è tecnico e soprattutto usa le parole molto bene, e scrive questo pezzo su Roger Federer, che di fatto è riassunto nel titolo As a Religious Experience, come se fosse un'esperienza religiosa, con tutto il rispetto per qualsiasi tipo di confessione. Lui chiude questo racconto su Roger Federer facendo chiaramente una citazione più alta, che ha a che fare un po' con il mondo e un po' con la bellezza. Nel 2006 siamo ancora in piena era del gioco d'attacco da fondocampo e Roger Federer è un picchiatore di prima categoria, uno che da fondocampo ti spacca. Il punto è che Federer non è solo questo, c'è anche l'intelligenza, la previsione occulta, il senso del campo, la capacità di leggere e manipolare gli avversari, di dosare le rotazioni e le velocità, di spiazzare e nascondere i colpi, di usare l'intuizione tattica, la visione periferica e le varietà cinetiche invece di uno stantuffo meccanico. Tutto questo ha svelato i limiti e le possibilità del tennis maschile come è giocato oggi. So che può sembrarvi tutto molto esagerato e carino, ma per favore, rendetevi conto che questo ragazzo non è né esagerato né astratto, né tantomeno carino. Nello stesso modo enfatico, empirico e schiacciante con cui Landel aveva imposto la propria lezione, Roger Federer sta dimostrando che la velocità e la potenza sono semplicemente lo scheletro del tennis odierno, ma non la carne. Federer ha dato figurativamente e letteralmente una nuova forma corporea al tennis maschile. E per la prima volta in diversi anni, il futuro di questo gioco è diventato imprevedibile. Avreste dovuto vedere sui campi secondari di Wimbledon il balletto variopinto che è stato il torneo juniores di quest'anno. Volée smorzate e rotazioni miste, servizi rallentati, mosse pianificate con tre colpi d'anticipo. Tutto mischiato ai soliti grugniti e siluri. Se tra questi juniores ci fosse un futuro Federer, non possiamo saperlo, ovviamente. Il genio non è riproducibile. L'ispirazione, però, è contagiosa e multiforme. E anche solo vedere da vicino come la potenza e l'aggressività possano essere rese vulnerabili alla bellezza ci fa sentire ispirati e in modo fuggevole e mortale riconciliati. Up. appunto, senza tutta la retorica del caso, la retorica autobiografica, in qualche modo si può essere eroi per un giorno. Vi ricordo che tutte le canzoni che mandiamo in onda sono sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, anche questa del Duca Bianco, la trovate, ci cliccate sopra e parte direttamente un video di YouTube con questa canzone. Torniamo a parlare, per chiudere, di persone che hanno vinto due volte. C'è un messaggio di Andrea sul profilo Facebook che dice: tennis, Coppa Italia per non classificata, anni 80 e 90. Ad Alessandria, noi di Casale, giochiamo e quindi è derby. Perdo e vinco il singolo. Mi spiego meglio. Terzo set sul 5-3 per il mio avversario. Perdo l'ultimo game e quindi sarebbe 6-3 e quindi avrei perso. Ma il mio avversario, mentre mi avvicino per stringergli la mano, mi dice 5-2, no? E io gli dico: bene, cambio campo e non ne perdo più uno, vinco 7-5 per me. Nel doppio vinco di nuovo e nella coppia avversaria gioca sempre lo stesso avversario. Questa in realtà vale un po' di più di una doppia vittoria, Andrea. C'è un po' di più qui dentro di una doppia vittoria. Il lago di Endine non è una pozzanghera, c'è la statale che lo festeggia per intero, paesini, passeggiati, locali. Andrea, vieni a vederlo. Guarda, appena posso vengo. Se non è questa domenica che sono impegnato a Torino, vengo un'altra. Sono Tommaso. Ah, giusto, è arrivato il messaggio a proposito di West Paden, il giocoliere. Il ragazzo che ci ha mandato il messaggio è Tommaso, che dice: ho 11 anni, faccio giocoleria da 3 anni e sogno di diventare come West Paden. Più tardi linkiamo un video di West Paden, perché prima mi sono ipnotizzato a guardarlo durante la borsa. Intanto ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata. Ringrazio Pietro Lacorte, Tiziano Bonini e Margherita Ina. Ringrazio soprattutto Maurizio. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Gerardo, vivo a Roma, la storia di domani è la mia e parla della mia prima esperienza in Legione Straniera. Questa è la mia storia e io sono qui. Buon pomeriggio, Andrea.